Cavaliere e ladro, voi vi occuperete di lanciare gli attacchi. Per farlo, dovrete combinare le forze e fare in modo che l'energia raggiunga il mago, che si trova a 20 metri di distanza. Tenete bene a mente che ognuno di voi necessita di 3 unità di forza per trasportare una unità di energia ogni 10 metri. Ogni attacco è composto da 8 unità di energia da lanciare. Voi siete in 2, quindi vi dividerete il carico a metà. Quanta forza servirà a ciascuno di voi per ogni attacco?